Roberto Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Credo molto in lei. Troppo buona, grazie. Anche non mi conosce. No. Ho avuto modo di conoscerla anche altre volte. Grazie mille. E così riprendiamo le giuste rotte, riprende quindi effetto notte, scusate la rima un po' che mi diciamo nascondevo nella notte, eccomi riemergere, e con questa frase di Renzi, che in realtà lui non torna mai, è sempre presente, sempre molto dialogante, l'avete sentito con questa passante che le diceva, che lei gli esprimeva grande fiducia, ho fiducia in lei, lui dice proprio perché non mi conosce, poi vabbè, l'ardua sentenza naturalmente agli elettori. Sapete che tra l'altro il 25 maggio, ve l'ho ricordato varie volte, c'è sempre anche l'appuntamento europeo, qui effetto notte, si vota per il Parlamento europeo, e naturalmente le notizie poi sono tante, a parte la direzione del PD che c'è stata oggi, dove Renzi ha anche detto i sondaggi portano sfiga, quindi non ne parliamo, ma tra le notizie c'è anche questo di questa storia orribile che è capitata, occorsa vicino Firenze, poi ne parleremo, e poi continuano le polemiche di fuoco sulle follie degli ultra di sabato, e mi piacerebbe che su questo argomento, se volete, cominciaste a dire la vostra riflessione. Quali sono secondo voi delle misure possibili che si possono prendere per prevenire questa tracotanza, questo strapotere anche degli ultra, ma è possibile che tengano in scacco degli stadi migliaia anche di persone, a volte uno stesso paese, non solo le forze dell'ordine? C'è già il Viminale, il Ministero dell'Interno, che sta pensando a un provvedimento, al raddoppio della DASPO, quindi dell'allontanamento dalle manifestazioni sportive per i recidivi, poi parleremo anche di questo argomento. Per voi, come sempre, per le vostre opinioni, c'è lo spazio sulla pagina Facebook di Effetto Notte, oppure per i messaggi 349-238-6666. Ma come sempre, cominciamo con le buone abitudini, vi racconto una sintesi della giornata. Crisi Bruxelles vede una graduale ripresa in Italia, ma rimanda di un mese i giudizi più approfonditi. Ottimista il ministro dell'economia Padoan, e torna a crescere il potere d'acquisto. La follia degli ultra, il Viminale pensa a un raddoppio del DASPO per i recidivi, e Napolitano dice non si tratta con i facinorosi. Firenze, per la donna uccisa con brutale violenza, si ipotizza un serial killer. Crisi ucraina, ancora sangue, Mosca paventa la catastrofe umanitaria. E per l'immigrazione una nuova tragedia, decine di annegati nel Mar Egeo. Per quanto riguarda il calcio, poi seguiremo la partita di questa sera tra Juventus e Atalanta. Quindi, come vi dicevo, dai titoli, dalle previsioni economiche della Commissione europea, che gettano, pare, un po' di luce sul nostro paese. L'Italia si avvia verso una graduale ripresa, dice Bruxelles, ma ogni giudizio è rinviato al 2 giugno con le nuove raccomandazioni. La Commissione europea si è rivelata oggi prudente sull'evoluzione dei conti pubblici italiani. Ogni valutazione sulla politica economica del governo Renzi è stata rinviata a giugno, quando verranno pubblicate attese raccomandazioni paese. Sul fronte della situazione economica, l'esecutivo comunitario prevede una graduale ripresa dello 0,6% nel 2014 e dell'1,2% nel 2015. Le stime sono leggermente inferiori a quelle del governo italiano. Tornando ai conti pubblici, la Commissione europea ha lasciato invariate le previsioni di febbraio, in attesa di capire se le misure fiscali saranno effettivamente finanziate da Italia alla spesa pubblica e se la richiesta italiana di rinviare di un anno il pareggio di bilancio è giustificata da un'accelerazione delle riforme economiche. Beda Romano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Bruxelles. Nel frattempo il ministro dell'economia Padoan, oggi a Bruxelles per l'Eurogruppo, afferma che i numeri di Bruxelles confermano chiaramente, così dice, che il paese migliora e che la crescita è avviata. Le previsioni di primavera della Commissione confermano, secondo me, molto chiaramente che il paese sta migliorando, c'è crescita, c'è miglioramento della competitività, ma io direi soprattutto c'è aumento degli investimenti e aumento dell'occupazione nel periodo di previsione. Seconda questione è il pareggio strutturale, che, come avrete visto dai numeri, è diverso dalla previsione che noi abbiamo avanzato. La ragione è molto semplice: questa previsione, come dice chiaramente il documento della Commissione, non tiene conto delle politiche che sono state intraprese. Non mi sento preoccupato, ma vorrei anche dire che altri paesi, che non nomino, hanno una posizione di aggiustamento di bilancio molto peggiore della nostra, o meno migliore, se posso dirlo. Siamo meno migliore. Continua intanto a crescere il gettito delle entrate tributarie derivanti dall'attività di accertamento e controllo, che risulta in aumento del 9,1%, quindi più 141 milioni di euro. Questo lo comunica il Ministero dell'Economia e si tratta del dato dei primi tre mesi del 2014. E oggi c'è stata la relazione annuale ai mercati finanziari del presidente della Consob, cioè dell'organismo di controllo della borsa, Giuseppe Vegas, che conferma: la ripresa c'è, ma servono riforme strutturali e privatizzazioni. Si tratta tuttavia di un equilibrio fragile. L'Italia ha compiuto rilevanti sforzi di risanamento dei conti pubblici basati su rigorose politiche di riduzione della spesa corrente. Sta ora avviando le necessarie riforme strutturali, le sole in grado, insieme a una migliore regolazione dei mercati, di incidere sull'efficienza e sulla competitività del nostro sistema produttivo. Ci troviamo di fronte a una finestra di opportunità che va colta senza esitazioni, anche perché probabilmente non sarà lunghissima. Si parla di ripresa economica e naturalmente non si può non parlare di lavoro. Il decreto sul lavoro è addirittura d'arrivo. C'è stato oggi il via libera in commissione al Senato dell'emendamento del governo che introduce sanzioni amministrative per le aziende che violano il limite del 20% di contratti a termine sul complesso dei dipendenti. La misura, della quale poi parleremo, è una delle 8 presentate dall'esecutivo, frutto di una mediazione all'interno della maggioranza, soprattutto col nuovo centrodestra. Per i sindacati si rischia di aumentare la precarietà, invece per il ministro del lavoro Poletti il governo punta delle tutele crescenti con l'obiettivo di avere persone occupate e più stabilmente. Questo è un tema effettivamente molto delicato, molto dibattuto, poi si vedrà nei prossimi mesi cosa succederà, ma poi lo affronteremo. Intanto i partiti proseguono la campagna elettorale in vista delle europee. Da una parte gli sciacalli, dall'altra la speranza, e questa è la visione di Matteo Renzi della politica italiana. Il premier attacca Beppe Grillo, colpevole di scommettere sulla disperazione, mentre lui punta a riformare la Costituzione, che non significa né autoritarismo né violenza. Viviamo questa campagna elettorale come deve essere vissuta, cioè come il derby tra rabbia e speranza. Loro sono la rabbia, noi siamo la speranza. Loro sono l'insulto, noi siamo il dialogo. Loro sono lo sfascio, noi siamo la proposta. Loro sono contro l'Italia, noi siamo per un'Italia che sia in grado di guidare l'Europa. I sondaggi portano sfiga, mentre riguardo agli 80 euro in busta paga il premier precisa: non sono una misura elettorale ma solo un antipasto. A Renzi risponde subito il Movimento 5 Stelle, così il capogruppo alla Camera Giuseppe Brescia. Lo sciacallo è lui che utilizza temi come le riforme, che sono dei temi importantissimi che hanno bisogno di tempo per essere discussi, per farsi campagna elettorale. Noi rappresentiamo la speranza di cittadini arrabbiati, però arrabbiati nei confronti di questi partiti che non fanno altro che mentire e continuano a mentire. Per Forza Italia parla Silvio Berlusconi, sicuro che il partito supererà il 25% alle europee, e il Cavaliere lancia un progetto: trasformare i moderati in maggioranza politica compatta. Elisabetta Fiorito, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. Passiamo adesso alla vicenda degli ultra e della finale di Coppa Italia. Vedo tra l'altro vari vostri messaggi, sia al 349-238-6666, sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte. Poi ne leggerò qualcuno, anche se molti dicono bisogna togliere la polizia dagli stadi, che sarebbe anche un bel risparmio. E poi invece qualcun altro dice: Ste 75, per i tifosi servono misure più severe, DASPO a vita per chi commette reati, stadi nuovi gestiti dalla società e penalità alle squadre che hanno contatti diretti con i capi ultra. Dicevo, nella polemica interviene anche il presidente della FIFA, Blatter, che commenta: il calcio non merita tutto questo, il nostro sport è fatto per unire, non dividere la gente. Intanto tre testimoni incastrano Daniele De Santis nell'informativa della Digos inviata alla Procura di Roma. Infatti ci sono delle dichiarazioni di tre testimoni che hanno visto l'ultra della Roma esplodere i colpi di pistola contro il gruppo di supporter napoletani che lo aggrediva, secondo alcuni, dopo le sue provocazioni. Sono stabili ma restano critiche le condizioni di Ciro Esposito, il tifoso del Napoli ferito a Roma prima della finale di Coppa Italia è ricoverato al Policlinico Gemelli, il giovane è piantonato nella sua stanza in stato di fermo con l'accusa di rissa, una circostanza che ha lasciato sconcertati i familiari. A difenderlo gratuitamente è il legale di Maradona, l'avvocato Angelo Pisani. Mio figlio è una vittima, protesta la madre del giovane Antonella Leardi. È una cosa che io non concepisco, a me me l'ha detto il primo. Mario dice: signora, suo figlio sta infermo, in arresto, non ho capito bene. Io credevo che loro lo stavano proteggendo, mio figlio. Invece mio figlio, che sta in coma farmacologica, è piantonato. Piantonato in ospedale, ma con l'accusa di tentato omicidio e porto abusivo d'armi, e anche Daniele De Santis, l'ultra della Roma, che secondo la Digos avrebbe ferito a colpi di pistola Esposito e altri due tifosi partenopei. De Santis nega, ma sarebbe stato riconosciuto da almeno tre testimoni. Gli inquirenti non gli credono e stanno anche cercando di identificare tre persone che sarebbero state viste con lui nella rissa che ha preceduto la sparatoria. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E la vicenda ha scatenato inevitabilmente anche una serie di dichiarazioni politiche. DASPO oltre 5 anni, in alcuni casi persino a vita, divieti preventivi d'ingresso allo stadio e poi vigilanza raddoppiata sul tifo organizzato e sulle infiltrazioni criminali. Il governo promette tolleranza zero contro il calcio violento a 2 giorni dalla pagina nera della Coppa Italia, con un disegno di legge che potrebbe essere approvato nelle prossime settimane. Dopo le europee vorrebbe il premier Renzi per evitare strumentalizzazioni, così il ministro dell'Interno Alfano. Quella a cui stiamo pensando è il divieto a vita di frequentare manifestazioni sportive da parte di chi si sia reso protagonista di questi atti indegni. Una misura che anche il ministro della giustizia Orlando starebbe valutando, seppur con cautela, ma intanto infuria la polemica dopo l'intervento del capo ultra del Napoli, che avrebbe permesso, secondo molti, di giocare la partita trattando con la Digos. Le opposizioni attaccano, Forza Italia chiede al responsabile del Viminale di riferire in Parlamento e interviene anche Berlusconi. Quello di sabato non è stato un bello spettacolo, dice, e lo stato ostaggio di capi ultra non è una bella cosa. Alfano però torna a ribadire: nessuna trattativa, i capi delle tifoserie sono stati fatti incontrare solo per rasserenare gli animi. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. Intanto un'agenzia di pochi istanti fa in cui Renzi, a proposito dell'eventualità della DASPO a vita, dice: ne discuteremo. Poi ne discuteremo anche con un ospite che ne sa bene di queste cose. Vedo vari altri vostri messaggi. C'è Enzo 64 che dice: pene certe, non ha importanza, siano spropositate, l'importanza e che siano certe. Spostiamoci però intanto all'estero. Un nuovo monito della Russia ai separatisti filorussi in Ucraina. Mosca ha ammonito che nell'Ucraina orientale sta maturando una catastrofe umanitaria nelle città assediate, dove si sente la mancanza di medicinali, inizia l'irruzione nell'approvvigionamento alimentare. Questo è quello che si legge, questo appello, questo monito, in una nota del Ministero degli Esteri russo. L'Ucraina scivola verso due date, l'11 e il 25 maggio, decisive per il suo destino. Domenica prossima i separatisti dell'Est vogliono organizzare un referendum che dimostri il distacco tra Kiev e gli abitanti di Donetsk e delle regioni orientali. Le forze armate del governo centrale invece insistono sul tentativo di riconquistare i centri della rivolta per dare legittimità alle elezioni presidenziali del 25 maggio. Un voto che, in clima ormai da guerra civile, Mosca definisce assurdo. L'obiettivo dei russi naturalmente è delegittimarlo, ma è davvero difficile immaginare che tra 2 settimane ci siano le condizioni in tutto il paese per un voto onesto e trasparente, come ha promesso il presidente ad interim Turchinov ad Angela Merkel. Del resto, la situazione sul campo non sembra potersi sbloccare. A Slaviansk i governativi cercano di avvicinarsi al centro, ma ancora si combatte ai posti di blocco attorno alla città, dove i separatisti hanno ammesso la perdita di 10 persone. L'esercito invece ha perso un elicottero, il pilota sarebbe in salvo. Su questo scenario incombe l'ombra di Odessa, focolaio acceso dalla strage di venerdì scorso. Qui, dove fino a venerdì le tensioni erano rimaste sotto controllo, la rivalità tra separatisti filorussi e radicali vicino a Kiev può esplodere di nuovo in qualunque momento. Antonella Scott, Radio 24, Sole 24 Ore. E poi un aggiornamento dalla Nigeria di un fatto che avevo raccontato diversi giorni fa. Il gruppo integralista islamico nigeriano Boko Haram ha rivendicato il rapimento lo scorso 14 aprile di 223 studentesse. Abbiamo preso le vostre figlie e ora sono schiave, le venderemo al mercato, dice così il capo dei ribelli integralisti Shekau in un video di 57 minuti in cui appare in mimetica davanti a un blindato e 2 pick-up dotati di mitragliatrici. L'uomo, circondato da vari uomini col volto coperto, dice di tenere le studentesse come schiave, dichiara di averle rapite perché le due l'educazione occidentale deve cessare, riprendendo uno degli slogan del gruppo il cui nome è proprio Boko Haram, è traducibile con l'educazione occidentale è peccato. E queste sono tutte adolescenti tra i 12 e i 17 anni che hanno avuto la sola colpa di voler studiare. E c'è un nuovo dramma dell'immigrazione, c'è stato il naufragio di due imbarcazioni con 65 persone a bordo al largo di Samos, dell'isola di Samos. Cercavano di raggiungere la Grecia dalla Turchia, decine si apprende sono le persone annegate, fra le vittime diversi bambini e donne, una era anche incinta. E Renzi chiede che l'Unione Europea abbia un cuore nel Mediterraneo. Per quanto riguarda la cronaca, quella storia terribile di cui vi dicevo, vicino Firenze, il cadavere di una donna è stato trovato legato a una sbarra in una strada secondaria al confine con Scandicci. La donna, dell'apparente età di 25-30 anni, era inginocchiata, legata con un nastro adesivo a una sbarra orizzontale come se fosse crocifissa. Di questo poi parleremo. Passiamo a qualcosa di diverso, alla fiera dell'alimentare, Cibus, il salone internazionale del Made in Italy alimentare. Porre le basi per un futuro sostenibile a partire dal cibo e dai temi dell'agroalimentare. Da Cibus, la fiera internazionale dell'alimentare in corso a Parma, Barilla lancia il protocollo di Milano, la sfida per arginare fenomeni che purtroppo sono in crescita negli ultimi anni, li spiega il presidente Guido Barilla. Sono i tre grandi paradossi, cioè che c'è 1 miliardo di persone che mangiano troppo e 1 miliardo di persone che muoiono di fame. Secondo, che un'enorme quantità di produzione agricola è dedicata all'alimentazione animale e non per sfamare le persone. E il terzo paradosso, che 1/3 dei prodotti alimentari a disposizione delle persone viene gettato. La Fondazione Barilla Center for Food and Nutrition lavora dunque per sensibilizzare cittadini e istituzioni su questi temi, raccoglie molti consensi istituzionali in Italia e in Europa. Il presidente della Commissione dell'Unione Europea per l'Agricoltura e lo Sviluppo Rurale, Paolo De Castro. Una grande sfida all'umanità per dire cibo, dobbiamo produrre più cibo perché il mondo chiede più alimenti, dobbiamo produrre di più inquinando meno, ma soprattutto dobbiamo sprecare meno. Abbattimento del 50% dello spreco alimentare entro il 2020, riforme agrarie mirate alla sostenibilità, lotta alla fame e all'obesità. Gli obiettivi sono ambiziosi, ma sicuramente con l'Expo 2015 alle porte l'attenzione a queste tematiche sarà sempre più alta. Stefano Totoro, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Parma. E chiudo questa prima parte di racconto della giornata con il calcio, speriamo un calcio un po' più sano, con Dario Ricci. La Juventus che sta sfidando l'Atalanta, in realtà è quasi più un esercizio ginnico, Dario, è vero? Sì, ha dato una splendida interpretazione Roberta. Grazie. Perché Juventus, ormai campione d'Italia, in virtù della sconfitta di ieri della Roma a Catania, e quindi soprattutto festa scudetto a Torino, 19° di gioco, 0-0 con Antonio Conte che dà spazio alle seconde linee, titolari Osvaldo, Padoin, Peluso, il portiere di riserva Storari, insomma quei giocatori che durante questa galoppata trionfale hanno trovato meno spazio. Interessante invece il 3-3 dell'altro posticipo di oggi tra Lazio e Verona, che allontana, malgrado lo spettacolo dell'Olimpico, allontana entrambe le squadre un po' dall'Europa League. Invece a Torino finora 20° di gioco, Juventus 0, Atalanta 0. Grazie caro Dario, ci sentiamo più tardi, intanto adesso sentiamoci invece gli aggiornamenti per chi viaggia e poi di nuovo insieme. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Tra poco parleremo di queste notizie sull'economia italiana, da una parte positive, dall'altra meno, insomma c'è sempre un po' un tira e molla e non si capisce mai se sono positive o negative fino in fondo. A questo tra poco, e adesso vi ricordo quali sono stati i fatti principali della giornata. Sulle violenze, alla finale della Coppa Italia, il pugno duro di Napolitano che dice bisogna rompere con gli ultra, e Renzi commenta è stato un errore parlarci, evidentemente con gli ultra, ma è sciacallo chi specula. All'anno in Unione Europea l'Italia cresce poco, ma il ministro Padoan dice la strada è giusta, migliorano i consumi delle famiglie e torna a crescere il potere d'acquisto. A Firenze per la donna uccisa con brutale violenza si ipotizza un serial killer. Crisi ucraina, ancora sangue, Mosca paventa la catastrofe umanitaria. Per quanto riguarda l'immigrazione, una nuova tragedia, di annegati nel mare Egeo, e per il calcio in corso la partita Juve-Atalanta che, guardo agli aggiornamenti, è ancora 0-0, mentre è finita a 3 pari la partita Lazio-Verona. Caro Alberto Rioli, ben ritrovato. Buonasera a tutti. Ciao Alberto, vice direttore del Sole 24 Ore, al quale appunto vorrei chiedere lumi su questa notizia che leggevo in breve come titolo, no? Da una parte allarme in Unione Europea, l'Italia cresce poco, però il ministro Padoan prima dell'Eurogruppo oggi ha detto la strada è giusta, migliorano i consumi delle famiglie, torna a crescere il potere d'acquisto. È sempre per rimanere con un piede dentro e un piede fuori queste notizie o dove sta? Come sempre c'è la diplomazia dei numeri. Il problema è che l'Europa continua ad accreditare un aumento del PIL allo 0,6% nel 2014, mentre il governo ha stimato uno 0,8% e Renzi ha detto più volte in questi giorni che è una stima più che prudenziale, perché il PIL in realtà crescerà di più e avremo sorprese positive che non ci aspettavamo di qui a fine anno. L'Europa è molto più guardinga e scettica, come è sempre peraltro nei confronti dei piani di politica economica dei singoli paesi, e all'Italia ancora non vuole accreditare quel bonus di fiducia che invece il governo Renzi spererebbe di conquistare, e quindi per ora c'è questa differenza dello 0,2% sulla crescita, un dato più negativo sul deficit strutturale che ci tireremo dietro ancora quest'anno fino al 2015. Non c'è però, ed è questo è molto importante come risultato politico per l'Italia, una bacchettata sul fatto che abbiamo rinviato di un anno il cosiddetto pareggio di bilancio, che così tante polemiche aveva accompagnato. In realtà su questo l'Europa sembra abbastanza clemente. Per il resto, su tutto il pacchetto di misure, di riforme, di impatto fiscale e quant'altro, ha sospeso di fatto il giudizio, rinviando il tutto a fine giugno. Ma sentiamoci Alberto Orioli, che cosa ha detto esattamente Padoan oggi? Le previsioni di primavera della Commissione confermano, secondo me, molto chiaramente che il Paese sta migliorando, c'è crescita, c'è miglioramento della competitività, ma io direi soprattutto c'è aumento degli investimenti e aumento dell'occupazione nel periodo di previsione. Questo mi sembra confermare che le cose stanno andando bene e che la politica economica del governo le rafforzerà. Seconda questione è il pareggio strutturale, che come avrete visto dai numeri è diverso dalla previsione che noi abbiamo avanzato. La ragione è molto semplice: questa previsione, come dice chiaramente il documento della Commissione, non tiene conto delle politiche che sono state intraprese. Quindi da questo punto di vista non solo non mi sento preoccupato, ma vorrei anche dire che altri paesi che non nomino hanno una posizione di aggiustamento di bilancio molto peggiore della nostra, o meno migliore, se posso dirlo. Qui mal comune mezzo gaudio. Però Alberto Orioli, volevo chiederti questa cosa: ne dice non tiene conto l'Unione Europea di alcuni provvedimenti, di alcune iniziative politiche. Fra queste, secondo te, ci sono anche quelle legate all'occupazione? Tu sai che oggi c'è stato il via libera della Commissione Lavoro del Senato all'emendamento che riguarda le aziende che sforano il tetto del 20% di contratti a termine, no? Sì. Fino a qualche giorno fa queste aziende sarebbero state obbligate, diciamo, come sanzione ad assumere a tempo indeterminato. Invece è passato questo emendamento, soprattutto per trovare una mediazione con la destra, secondo il quale non devono assumere obbligatoriamente, ma pagheranno una multa fino al 50% della retribuzione anziché essere obbligati a assumere. Ci spieghi intanto questo passaggio. Sì, 50% di quale retribuzione? Beh, la retribuzione annua lorda del lavoratore interessato. Comunque è un passaggio molto importante, perché in effetti rispetto alla prima stesura del decreto Poletti la Camera aveva introdotto alcuni emendamenti che avevano un pochettino edulcorato la spinta alla flessibilità, la spinta amichevole verso le imprese con la quale il Ministro aveva voluto caratterizzare questo provvedimento, perché è un provvedimento che serve ad aumentare la capacità di investimento e a creare occupazione. Il fatto di ingiungere a chi avesse sforato il limite del 20% del totale dei contratti a termine sul totale del proprio organico di posti fissi, ingiungergli l'assunzione a tempo indeterminato, è una cosa che spaventa moltissimo le aziende, perché a volte errori di questo tipo sembrano cose create con il dolo, ma in realtà a volte sono anche frutto frutto di leggerezze contabili, diciamo così, o su un errore nella base di calcolo di queste percentuali. E quindi sono errori formali, per così dire. Quindi, questa cosa avrebbe in realtà inibito la creazione di occupazione. Questa trasformazione in sanzione amministrativa sicuramente va in una direzione più favorevole alle imprese, cosa che le imprese appunto avevano subito chiesto non appena era stato licenziato il testo dalla Camera. Ma secondo te, Alberto, allora, da una parte i sindacati dicono si rischia in questo modo di aumentare la precarietà, Poletti invece dice il governo punta delle tutele crescenti, siamo sicuri che queste misure favoriranno ulteriore occupazione? Ma diciamo, io sto al mood che sentiamo noi delle imprese, che sentiamo quotidianamente. Loro sono molto fiduciose che questo tipo di provvedimenti va nella direzione da loro auspicata, e che sicuramente per le aziende di maggior caratura e medie dimensioni saranno sicuramente interessate ad aumentare l'occupazione. D'altro canto è quello che anche il governo sta prevedendo, peraltro in queste famose linee di politica economica che sono state illustrate a Bruxelles. E sicuramente per le imprese il provvedimento che è uscito dalla Commissione Lavoro del Senato è più favorevole ed è migliore rispetto a quello che era uscito dall'Aula della Camera. Secondo te, per chiudere, Alberto Orioli, questo, come vogliamo dirlo, in positivo o negativo, ulteriore flessibilità non rischia di, nel senso, uno può vederlo anche in positivo, di cambiare strutturalmente anche la società italiana, nel senso che meno si avrà la possibilità di investire sul proprio futuro con un minimo di sicurezza, e meno sarà possibile la creazione di famiglie, benché possa essere qualcosa di obsoleto, di... No, questo hai assolutamente ragione, ed è purtroppo auspicabile. Io credo che la società italiana sia già stata cambiata, ahimè, nelle nuove generazioni che faticano a creare famiglie, a trovare i mutui, a farsi una casa, anche se non si volessero fare una famiglia, no? Però è già stato questo il frutto di una precarizzazione mal gestita. Io credo che ora bisogna convertire la vecchia precarizzazione selvaggia, più o meno selvaggia, in flessibilità intelligente, perché poi la flessibilità intelligente è quella che serve sostanzialmente a creare un serbatoio di occupazione, per così dire, a tempo, ma che serve poi per essere stabilizzata, perché è il vero investimento in capitale umano. Considera, ed è un'altra delle notizie di oggi, degli emendamenti che sono arrivati in commissione, per esempio, che e va nella direzione che ti sto dicendo, che è stato tolto anche il limite dei 36 mesi ed è stato allungabile per i contratti a termine per i ricercatori che siano vincolati a progetti di più lunga durata. Quindi c'è un movimento di scongelamento di norme che vanno nella direzione di creare una maggiore serenità nell'orizzonte di medio periodo dell'occupazione, altrimenti è chiaro che una società non cresce. Ma non è interesse dell'impresa avere occupazioni puntiforme, diciamo così, su cui non può mai neanche investire in formazione, perché con quello non riesci a fare nulla, non riesci a far crescere la tua azienda. Gli imprenditori sani, intelligenti, non ragionano così, non hanno mai ragionato così. Speriamo che sia una flessibilità intelligente, come hai sottolineato tu, Alberto Orioli, perché sai che di materia grigia non ce n'è moltissima in giro. Grazie, Alberto. Grazie a voi, buonasera. Ciao, buon lavoro. Tra poco, adesso ci prendiamo una pausa, ma tra poco affronteremo dunque l'argomento legato alle violenze fuori dallo stadio olimpico. Vedo ancora moltissimi i vostri messaggi che stanno arrivando sia alla pagina Facebook di Effetto Notte, sia attraverso i messaggi al 349-238-6666. Per esempio, questo ascoltatore o ascoltatrice dice: l'Italia è paese che non va, quello che accade negli stadi riflette la decadenza morale di questo popolo e di chi ne è a capo. Loro sono la nostra vera vergogna. E poi smettetela di violentare Napoli, dice, depredata da Savoia e umiliata da questo Stato. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Sempre Roberta Giordano con voi. Stavo guardando con un certo interesse tutti i vostri messaggi che stanno arrivando anche sulla pagina Facebook di Effetto Notte, relativamente alle possibili misure secondo voi da prendere per prevenire queste violenze inaudite negli stadi e con tutto quello che ne consegue. Anche i messaggi li potete mandare al 349-238-6666. Tra poco affronteremo con un ospite questo argomento, ma intanto vi voglio anche ricordare, se avete acceso in questo momento, quali sono state le notizie più importanti della giornata. Per quanto riguarda la crisi, Bruxelles vede una graduale ripresa in Italia, dall'altra parte dice però che cresce poco e rimanda di un mese i giudizi più approfonditi, mentre è ottimista il ministro dell'economia Padoan, che dice che torna a crescere il potere d'acquisto. Per quanto riguarda le violenze degli ultra, il Viminale pensa a un raddoppio del DASPO per i recidivi e Napoletano dice non si tratta con i facinorosi. E poi a Firenze ritorna l'incubo di un serial killer per la donna uccisa e crocifissa sotto un cavalcavia. crisi ucraina, c'è ancora sangue e si paventa una catastrofe umanitaria. C'è poi una nuova tragedia dell'immigrazione: al largo del Mar Egeo decine di annegati per due imbarcazioni che sono naufragate. Per quanto riguarda il calcio, quello diciamo buono, sereno per il momento, c'è la partita Juve-Atalanta, vediamo se ci sono degli aggiornamenti. No, prosegue per il momento 0-0. Quindi dicevamo, insomma, di questi eventi davvero inauditi, di questo spettacolo osceno offerto sabato dalla finale, diciamo a margine della finale di Coppa Italia tra Napoli e Fiorentina. Delle polemiche ne avete sentito parlare, abbiamo prima anche ascoltato tutta la ridda di commenti dei politici, e adesso il Viminale con il governo, insomma il ministro dell'interno, ma anche il governo Renzi, vi ho letto prima delle dichiarazioni del Presidente del Consiglio, intendono prendere dei provvedimenti più drastici. Per esempio si parla di questa della DASPO, cioè dell'acronimo che sta per divieto di accesso alle manifestazioni sportive, che dovrebbe essere appunto inasprita, raddoppiata per i recidivi. Qualcuno parla di una DASPO a vita, ma vedevo tra l'altro una cosa del Fatto Quotidiano che adesso voglio sottoporre a Piero Calabrò. Buonasera Calabrò. Sì, buonasera. Grazie di essere in collegamento. È giudice civile del Tribunale di Lecco, molto attento e sensibile a questo argomento, centrocampista tra l'altro, capitano della Nazionale Italiana Magistrati. Quindi uno sportivo, ma di quei sportivi sani, leali, onesti, sì, no? Immagino, sanissimo. Visto che lei è magistrato. Calabrò, allora, a proposito di questa cosa della DASPO, tra l'altro poi lei mi farà, se vuole, tutto un commento su quello che è successo sabato, ma leggevo adesso sulla pagina online del Fatto Quotidiano, sulla versione online del Fatto Quotidiano, che in realtà esisterebbe già la possibilità di dare questa DASPO a vita. Vediamo se lo ritrovo. Pare che... Non è quello il problema, secondo me. Io con la Nazionale Magistrati, oltre che a giocare a calcio per solidarietà, ho un programma di diffusione di messaggi di legalità che riguarda anche la violenza negli stadi. Abbiamo con la vedova dell'ispettore della CIPI visitato scuole in tutta Italia, abbiamo fatto perfino un incontro fruttuosissimo con gli ultras del Messina, riportando per la prima volta in uno stadio la signora Racitti, che ricordiamo è la moglie dell'ispettore Racitti, che era stato ucciso da un ultra anni fa. Ecco, ricordo solo un fatto: l'uccisione di Racitti nel 2007. Noi è 7 anni che andiamo diffondendo un certo tipo di messaggi. Se i vostri ascoltatori sono interessati, posso dare anche riferimenti web su dove possono andare, sì, a trovare i nostri lavori non di mera opinione del momento, ma basati anche su studi approfonditi di quello che avviene ed è avvenuto in altri paesi, aggiornatissimi a quest'ultima stagione. E purtroppo bisogna riconoscere che in Italia, di tutto quello che noi modestamente abbiamo suggerito, diciamo dall'alto, dal basso, dalla nostra esperienza non solo professionale, non dico che niente sia stato fatto, come ha detto anche il Presidente Arconi, ma più o meno siamo a quel livello. E quindi Calabrò, sì, se dice che la DASPO, cioè questo allontanamento o temporaneo a vita, faccio un esempio: il DASPO è il divieto di assistere alle manifestazioni sportive. La sparatoria di ieri è avvenuta lontano dallo stadio, quindi un soggetto destinatario di un DASPO anche a vita avrebbe potuto fare quello che ha fatto ieri. Allora Calabrò, io le leggo velocissimamente, perché partecipano le ascoltatrici e gli ascoltatori a questi argomenti, alcuni loro commenti, e poi mi dice in realtà secondo lei che cosa potrebbe essere efficace, che cosa insieme alla vedova Racitti andate spiegando in giro anche per le scuole e nei vostri incontri. Allora, per esempio, Roby dice: non è difficile, sulla pagina Facebook di Effetto Noto, non è difficile, il calcio bandito per un anno, al prossimo episodio per due, poi tre, via dicendo, ma in tutte le categorie, perché la punizione di queste persone la capiscono se toglie loro il giocattolo. In questo modo tutti faranno più attenzione. Marco dice: ci vuole la certezza della pena, sospensione del campionato per un lungo periodo. Maurizio: un bel periodo a tempo indeterminato senza campionato, Coppa Italia, Supercoppa Italia, vediamo se mettono giudizio. Ma il dio denaro, dice, della TV fa gola a molti individui. Domenico: se magari seguissimo l'esempio britannico, qualche risultato in più lo avremmo. Poi ci spiegherà se lei lo conosce. Esatto, perché poi tutti parlano di questo esempio più che britannico. Sì, vedo anche Cristina iscriversi. Pochi lo conoscono veramente. Ma che cosa si tratta? Cosa consiste? Sì. Beh, allora cominciamo a rispondere che sospendere il campionato di calcio penalizzerebbe i veri sportivi, oltre che chi lo pratica, che non ha niente a che vedere con questo tipo di fatti. I violenti da stadio, lo dimostrano i fatti, trovano solo dei pretesti, sono indagini a livello internazionale che vedono addirittura tifoserie di paesi completamente strani, per esempio il nostro, altri campionati, che si organizzano dal Valle Trasferte con tanto di accessori al seguito per poter perpetrare violenze. Il calcio è solo un pretesto, possiamo sospendere tutti i campionati, le violenze continueremmo. E quindi che fare? Che fare? Ecco, l'esempio del calcio inglese è un esempio, anche se vogliamo, mi spiace dirlo, di una società complessivamente più matura dal punto di vista civico rispetto alla nostra. Quando è successo i fatti dell'Eisel, che vedo, io sono tifoso della Juventus, videro la morte di decine di tifosi e di sostenitori della Juventus per colpa, diciamo così, come accettò la storia di quell'evento dei tifosi del Liverpool, venne sia a livello internazionale decretato lo stracismo del Liverpool, in particolare per 5 anni dal calcio internazionale, ma il Parlamento inglese, a prescindere dall'allora maggioranza che governava quel paese, decise di fare una cosa bellissima. Invece di prendere, come facciamo sempre noi, decisioni sulla base dell'emergenza, aumenti di pena, decreti poi confermati o no, commissionarono a Lord Taylor, che presiedette appunto, scusate, giovi parole, questa commissione d'inchiesta, uno studio sul perché di questi fenomeni e come combatterli. E il risultato finale fu incredibile, perché non venne messa al primo posto la repressione, che pur venne ampiamente praticata, ma venne stabilito che, per esempio, se venisse ricreato, come allora è stato fatto, il luogo in cui il calcio si esplica, lo stadio per esempio e lo spettacolo, certi soggetti sarebbero automaticamente banditi da questo proscenio. E così fecero. Gli stadi inglesi sono tutti di proprietà dei club, sono tutti composti a sedere, sono tutti praticamente monitorabili seggiolino per seggiolino. Ci sono delle regole ben precise. Chi si alza per esempio in modo innaturale o porta magliette o indumenti non viene fatto neppure entrare nello stadio, se ci dovesse riuscire verrebbe espulso immediatamente. Chi commette un atto dentro lo stadio può venire arrestato, ci sono celle di detenzione all'interno dello stadio e si fa il processo per divertirsi addirittura lì dentro. E soprattutto una cosa clamorosa, la polizia non entra negli stadi inglesi. La legge inglese prevede che le società abbiano l'obbligo di approntare un certo numero di steward proporzionato rispetto alla capienza dello stadio e a quella eventuale di una partita di cartello, se lo stadio non è sempre riempito al 100%, e se per caso quella società non ce la facesse e chiedesse l'intervento dello Stato, quindi dell'autorità di pubblica sicurezza, deve pagare allo Stato 100 agenti, 200 agenti, il costo di quella. Questo è un esempio di assoluta civiltà, questo ripeto è solo una sintesi assoluta di quello che mi sembra un'ottima idea ed è praticabile da noi. Se non è praticabile, perché? Per come sono gestite le squadre, per la natura delle nostre squadre, dei nostri club, delle forze dell'ordine? Noi siamo il paese delle proroghe, no? La messa in sicurezza degli stadi, quando venne ucciso l'ispettore Raciti, divenne quasi obbligatorio. Non so se vi ricordate, assistemmo al miracolo che i tornelli cosiddetti vennero installati in 48 ore per esempio a San Siro, quando non lo furono per anni, no? Ma il problema è che la violenza ormai è stata spostata al di fuori degli stadi, ma il problema è anche che all'interno degli stadi continuano a comandare, anche se a volte non esplicano i loro comportamenti in atti di violenza esasperata, gruppi e bande di tifosi organizzati che in altri paesi non esistono, perché il tifo organizzato è qualche cosa ormai di tipico solamente italiano ed è perfino vietato in paesi come la Francia. E quindi come ne usciamo, Calabrò? Insomma, oppure un altro suggerimento, l'ex amministratore della Juventus Blanc, che adesso dirige il Paris Saint-Germain, che è uno dei club più ricchi e sta diventando anche uno degli emergenti, quest'anno per combattere, visto che il loro gioco in uno stadio enorme difficilmente controllabile, ha stabilito che i posti vengono assegnati con la formula roulette, cioè uno deve comprarsi un biglietto e non sa se sarà vicino all'amico o al gruppo di amici, per cui è un modo talmente intelligente per sparpagliare all'interno di uno stadio quei pochi soggetti che magari sono quelli che messi in gruppo creano violenza. Basterebbe cominciare a fare un po' di tutte queste cose. Insomma, dice di esempi ce ne sarebbero, non resta che copiare. Che copiare. Le posso dire questo, che si faccia, ne parlavamo ieri anche con il Presidente del Senato e col Senatore Casson, che è Vicepresidente della Commissione di Giustizia, che entrambi collaborano con me all'attività della Nazione dei Magistrati, facciamo un codice dei reati da stadio, un codice serio, con delle norme ben precise, perché oggi è difficile anche identificare quale tipo di reato uno abbia commesso. Per esempio, lo scavalcare la recinzione in sé può essere considerato un reato, ma è chiaro che ben difficilmente con le norme di oggi tu potresti mandare in galera una persona che si limita a scavalcare. Stabilire che in un luogo come lo stadio questi comportamenti sono davvero comportamenti che creano un pericolo ben diverso che lo scavalcare la cancellata di un giardino pubblico, e stabilire pene severe e pesanti. Noi magistrati dovremmo essere meno buonisti quando facciamo le direttissime del lunedì, siamo d'accordo. Giudice Piero Calabro, io la ringrazio moltissimo, mi pare che di idee ne abbia messe sul piatto diverse, probabilmente ne ha raccontate già in giro per l'Italia, è solo una questione a questo punto anche di volontà politica. Intanto grazie Calabro. Posso dare un suggerimento a tutti i vostri ascoltatori? Sì. Andate sul sito nazionaleitalianamagistrati.it e troverete un mucchio di documentazione su questo tema. Molto utile, grazie Calabro. Grazie a voi, buona serata. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Anzi, diciamo in pochi secondi, ve le ricordo adesso e poi parliamo d'altro. A proposito della crisi economica, Bruxelles vede una graduale ripresa per l'Italia, il ministro dell'economia Padoan è però più ottimista, dice che ormai si va per la strada giusta e torna a crescere il potere d'acquisto. Per quanto riguarda le violenze degli ultra fuori dall'Olimpico sabato, il Viminale sta pensando a un raddoppio del DASPO per i recidivi. Avete sentito però prima il magistrato Calabro quante idee e possibilità ha elencato di misure che potrebbero essere prese per prevenire queste violenze. A Firenze torna l'incubo del serial killer per una donna uccisa con brutale violenza e crocifissa sotto un cavalcavia. La crisi ucraina prosegue con ancora la scia di sangue, Mosca che paventa la catastrofe umanitaria, una nuova tragedia dell'immigrazione al largo del Mare Egeo, decine di annegati. E per quanto riguarda il calcio, c'è sempre in corso la partita Juve-Atalanta con un risultato sempre uguale, quello di 0-0. Adesso l'Europa. Europa 24 notte. Un giorno Zeus, trasformato in un toro, prese sul suo dorso la bella Europa, principessa fenicia, gemma di Tiro, e colto da desiderio crudele, la rapì. Un ratto! Sì, un ratto! In piena regola! Oh, la bellezza di Europa era abbagliante! Nove attori, una musicista, sei cori, una piccola orchestra, una squadra di rugby, più ospiti illustri da Ennio Morricone all'ex ministro Chienga, all'allenatore di pallavolo Mauro Berruto, all'artista Enzo Cucchi. Il Ratto d'Europa è un po' giochi senza frontiere, un po' parodia di un talk show, racconto onirico in chiave pop dove la sceneggiatura è frutto di un lavoro condiviso che ha coinvolto a vari livelli rappresentanti della società civile attraverso laboratori, incontri, conferenze intorno al significato di essere e sentirsi cittadini europei. Una cavalcata nell'Europa di ieri e di oggi, condensata in uno spettacolo in scena al Teatro Argentina di Roma fino all'11 maggio. In realtà è frutto di un progetto nato ben 2 anni fa, come ci racconta il regista Claudio Longhi. Il progetto è nato nella ormai famosa e famigerata, più ancora che famosa, estate, in cui cominciò durante il mese di agosto la cavalcata dello spread, che poi portò a 576 punti di spread con tutto quello che ne conseguì, e quindi è nato sul onda del insorgere dell'emergenza Europa. E la cosa che mi colpì molto in quelle settimane era il grande scarto esistente tra un'emergenza Europa che respiravamo tutti quanti nei mezzi di comunicazione e dall'altra parte una sorta di latitanza o per meglio dire di assenza dell'Europa dalla quotidianità delle persone. Mi colpì in quel frangente quella divaricazione e a quell'altezza cronologica decidemmo di lavorare in questa direzione, presentando un progetto che consentisse alle persone di porsi questo problema. Allora, tirando le somme, un bilancio di questo progetto, quale Europa è venuta fuori? O forse voi non volevate trovare delle risposte, ma più che altro suscitare degli interrogativi? La finalità di questo progetto non era tanto quella di convincere i nostri interlocutori della positività del progetto europeo. Quello che ci interessava era mettere un punto interrogativo, cioè far sì che le persone si interrogassero e a quel punto liberamente decidessero qual era la loro posizione. Nella nostra cavalcata di questi 2 anni abbiamo ampiamente frequentato anche le zone dell'euroscetticismo, proprio perché quello che trovo importante in questo momento è che ognuno sviluppi criticamente e consapevolmente un proprio specifico punto di vista. I punti di vista ci possono stare tutti. Quello che non ci può stare è quando una posizione viene presa a prioristicamente sulla base di un sentito dire. Quello che ho potuto constatare è che molto spesso le risposte che di primo acchito vengono date alla questione Europa sono delle risposte per appunto aprioristiche e non radicate dentro un percorso di presa di coscienza vera. Questo era quello che ci interessava fare e ci interessava farlo con le specificità del linguaggio teatrale, quindi con un piglio di leggerezza. Europa 24 notte, in collaborazione con Euronet Plus. Insomma, era il vecchio continente raccontato in chiave pop con il ratto d'Europa da Alessandra Schepisi. Adesso invece passiamo a tutt'altro argomento. Avete sentito la notizia di cronaca di oggi, terribile, di questa giovane donna tra i 25 e i 30 anni uccisa alle porte di Firenze, poi crocifissa sotto un cavalcavia. Saluto il professor Ernesto Savona, professore di criminologia all'Università Cattolica di Milano. Buonasera e bentornato, professor Savona. Grazie, buonasera. Mi verrebbe subito come prima domanda da chiedere che cosa hanno tanti uomini nella testa, non pochi, tanti, però al di là di questo sembra, siccome si parla di un possibile ritorno di un incubo serial killer a Firenze, ricorda appunto dopo il mostro di Scandicci, no? Tra gli anni, fine anni 60, inizi anni 70, se non sbaglio, di tante 8 coppiette che furono uccise, e qui in questo caso invece si parla di un'altra giovane donna uccisa l'anno scorso, cioè torturata l'anno scorso nello stesso modalità, per fortuna trovata viva. Le sembra che si possa ipotizzare la presenza di un serial killer? Sì, ancora abbiamo pochi elementi per dire che si tratta di un omicida seriale. Abbiamo forse le modalità, e forse più ancora che conta è che sia una prostituta. Veda, i serial killer preferiscono le prostitute come oggetto della loro violenza, per ragioni legate al loro passato psicologico, rapporti con la madre e altre cose di questo tipo. Quindi questo forse facilita sicuramente il problema, però aspetterei ancora un po' di più prima che si possa dire che si tratta di un killer seriale, questo sì. Aspettiamo ancora qualche cosa sull'indagine e vediamo che succede. Le modalità sono quelle tipiche, purtroppo, di una violenza usata e abusata contro una persona. Poi crocifissa o non crocifissa, si tratta di capire se poi era vera questa cosa oppure no, però in questo momento sappiamo ancora poco. Crocifissa nel senso che era stata con un nastro legata ad un braccio da una parte e l'altro dall'altra, così a braccia aperte, insomma, e quindi simboleggiava, secondo gli investigatori, un po' una forma di crocifissione, no? Però professore, le sembra che siano cose che in Italia succedano abbastanza frequentemente rispetto ad altri paesi? Non so, uno pensa, quando pensa a un paese violento occidentale, Stati Uniti o paesi di questo tipo, le sembra che sia possa essere un caso isolato? Guardi, di uccisioni di prostitute in Italia, in realtà è frequente, no? Ce ne sono state tante, e di uccisioni di prostitute da parte serial killer veramente tantissime. Tantissime relativamente parlando, perché i killer seriali in Italia li abbiamo cominciato a scoprire da poco, per cui abbiamo scoperto che poi preferivano, tra virgolette, le prostitute. All'estero è anche sempre la stessa storia. Le prostitute sono la prima vittima target da parte dei killer seriali, che, le ripeto, hanno problemi che riguardano il loro vissuto psicologico. Quindi andiamo avanti e vediamo se si tratta di una cosa di questo tipo oppure no. Ancora però, per avere un killer seriale davanti come tipologia dell'autore, occorre aspettare che ricorrano alcuni elementi ed evidenze empiriche che ci dicano che si tratta proprio, certo, di modalità che si ripetono. Ancora un po' presto. Grazie professore, speriamo almeno di no, anche se c'è stata questa povera ragazza, questa povera vittima, che sia un caso isolato. Grazie professore Ernesto Savona. Nel frattempo. Grazie. E noi ci sentiamo tra poco, sempre per ricordarvi i fatti principali.